L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, proseguiamo oggi nella linea del riciclo ecoefficiente, che poi è quel volume, un rapporto curato da Ambiente Italia sull'industria italiana del riciclo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di carta e l'abbiamo fatto con il direttore generale di Comieco. Questa settimana cambiamo decisamente settore e parliamo di pneumatici. Con noi c'è Giovanni Corbetta, che è il direttore generale di Ecopneus. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. E c'è anche Giuseppe Piumatti, che ha tante cariche. Noi lo presentiamo con quella che c'è più vicina in questo programma, ovvero come presidente del gruppo Piumatti, del quale fa parte Bra Servizi, che è specializzata con varie aziende, specializzata nel trasporto, nello smaltimento, nel trattamento di rifiuti. Poi ovviamente in questa occasione ci parlerà principalmente di pneumatici, perché questo è il tema della puntata del giorno. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Tra l'altro io sono molto contenta di ritrovarla, noi ci sentimmo 4-5 anni fa, quando le cose non erano rose, come poi ci dirà adesso, e addirittura lei paventava: andremo all'estero se non riusciamo qui a fare il nostro lavoro per quanto riguarda gli pneumatici, e insomma è andata bene invece. Sì, diciamo che in 4-5 anni è cambiato un po' il mondo in quel settore, nel settore dei pneumatici è andata bene, diciamo che siamo contenti. Adesso siamo contenti, però bisogna sempre cercare di investire per cercare di ottimizzare gli impianti e far sì di fare grandi cose. Sì, sì. Vabbè, comunque poi ci dirà come avete fatto e a che punto siamo adesso. Adesso cominciamo con l'inquadrare un po' la situazione con Giovanni Corbetta. Allora, mi ricordo sempre in passato, parlando di questo tema, c'era un problema che era quello della quantificazione anche dell'impiego degli pneumatici che erano usati. Adesso questo problema della quantificazione dell'impiego mi sembra di capire sia stato in gran parte risolto, no? Sì, ci stiamo ormai avvicinando a un sistema industriale, quindi un sistema in cui i numeri sono chiari, sono noti, sono disponibili. E direi che quest'anno sarà l'anno dell'effettiva messa a punto di questa ultima parte, però dal 7 settembre, giorno d'inizio del nuovo modello, quindi giorno d'inizio dell'applicazione della responsabilità del produttore, ad oggi molte cose sono state fatte, molte certezze sono state confermate, qualche dubbio è stato risolto e qualche cosa ovviamente è stata anche riaddrizzata in quanto si è sviluppata in maniera diversa. Perché tanto qui, come è successo nel campo dei RAE, quindi dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, c'è adesso una responsabilità del produttore. Sì, chiunque immette pneumatici nel mercato italiano, o perché li produce o perché li importa, ha la responsabilità di garantire ogni anno una raccolta di quanto immesso l'anno precedente e quindi azzerare ogni anno il rischio di dispersione con una raccolta capillare di tutto quanto è stato annualmente immesso. Dunque, facciamo qualche numero, perché so che sono già diversi rispetto a quello che ci sono nel rapporto che citavo prima del riciclo efficiente di Ambiente Italia. Numeri che voi avete calcolato tra settembre e marzo 2012, quindi recentissimi, quindi vale la pena darli, no, direttore? Sì, io le do addirittura un dato aggiornato ormai ad oggi e stiamo arrivando a 160.000 tonnellate raccolte. Alle 72-73.000 dello scorcio di fine anno, quindi al primo periodo di inizio, 7 settembre 31 dicembre, dove avevamo appunto raccolto 72.000 tonnellate, si sono aggiunte adesso altri importanti quantitativi e stiamo appunto arrivando a quasi 160.000 tonnellate. Procediamo sostanzialmente a 20.000 tonnellate mese e quindi siamo sia in pari con gli obiettivi che ci ha dato la pubblica amministrazione, il governo, il ministero, sia con quanto comunque effettivamente c'è sul territorio, perché noi costantemente raccogliamo qualunque richiesta ci venga inviata e procediamo con una raccolta capillare che vada proprio a soddisfare le esigenze del gommista. Senta, per capire un po' anche questi numeri che lei ci ha dato, che tipo di differenza c'è rispetto a qualche anno fa? Nel senso, i numeri sono imponenti, ma qualche anno fa com'erano? Ma lo studio che abbiamo commissionato un paio d'anni fa a Lega Ambiente e poi abbiamo rinnovato l'anno scorso per avere dati più freschi testimonia che l'Italia perdeva circa un quarto di tutto il quantitativo di pneumatici immesso in canali illegali, in canali diciamo in dispersioni, in situazioni fuori controllo, e quindi si parla di una perdita di circa 100.000 tonnellate all'anno di pneumatici fuori uso. Oggi si può dire che il 100% di quanto viene staccato dal gommista viene raccolto, quindi a questo punto il primo obiettivo, che era quello di bloccare le dispersioni in maniera totale, è praticamente raggiunto. Ci può essere ancora ovviamente qualche pneumatico buttato, siamo veramente su numeri in percentuale ridottissima, e soprattutto molti di questi vengono ancora dalle giacenze che preesistevano prima del 7 settembre e su cui interverremo in futuro con degli svuotamenti di questi siti di deposito in maniera progressiva man mano che il sistema procederà a funzionare. Dunque, i canali di raccolta quali sono? Come si raggruppa tutto questo materiale? Noi abbiamo un sistema di raccolta per regione, per gruppo, per gruppi di regioni, nel senso che le regioni più piccole sono abbinate a quelle più grandi, e con un raccoglitore regionale che riceve ogni giorno nel sistema informatico di Ecopneos, ma in realtà presso un suo terminale, tutte le richieste che qualunque gommista, stazione di servizio, garage, officina meccanica, qualunque operatore che effettua il cambio di un pneumatico e in quanto monta un pneumatico nuovo, libera un pneumatico arrivato a fine vita. Bene, qualunque di questi operatori invia un messaggio al raccoglitore di zona non appena ha una cinquantina di pneumatici fuori uso in casa. Ovviamente non si può andare a raccogliere ogni singolo pneumatico perché sarebbe un sistema assurdo e non conveniente. Abbiamo trovato degli indicatori per dare un minimo al gommista o alla stazione di servizio in base alle sue strutture, al suo dimensionamento, al suo posizionamento, e tendenzialmente quando ha 50 pezzi chiama e nel giro di 5 giorni lavorativi interviene il raccoglitore regionale, preleva i pneumatici fuori uso accumulati e li concentra, mi lasci usare parole molto molto semplici, in un cortile dove c'è uno stoccaggio temporaneo di rifiuto. Ovviamente tutto questo avviene presso operatori autorizzati e siti autorizzati. In questo sito i pneumatici fuori uso vengono separati nelle loro dimensioni tra i piccoli, medi, grandi, e poi da questi siti si portano ai frantumatori. Il frantumatore è un passaggio obbligato perché non ci sono praticamente applicazioni di pneumatici fuori uso interi, si passa sempre attraverso una frantumazione per poter accedere a delle applicazioni. Dunque, a questo punto credo sia il momento, almeno come esperienza in questa catena, di fare intervenire Giuseppe Piumatti, perché Tritogom, che è una delle tante aziende che fanno parte di Bra Servizi, si occupa per l'appunto di trattamento e recupero degli pneumatici usati. In quale punto della catena, che ci ha descritto adesso Corbetta, voi intervenite? Noi come Tritogom interveniamo nella parte finale della lavorazione del pneumatico, dopo dai piazzali, che il materiale viene deposato sui piazzali e poi conferito a noi, sempre tutto autorizzato in accosata, conferito a noi direttamente all'impianto della Tritogom, che si trova sotto il comune di Keras, come vicino al casello dell'autostrada Marene, provincia di Cuneo. Automaticamente viene lavorato e produciamo polverino, pezzatura di, parlando in parole semplici, materiale di 1 mm, 2 mm o pezzettini o 3 mm, oppure anche materiale proprio fine, che sarebbe cosiddetto polverino, che poi a sua volta questo materiale qua è una materia prima secondaria e viene venduto, ceduto a chi fa determinate lavorazioni specifiche. E chi sono coloro? Che cosa se ne fa di questo polverino? Beh, diciamo che voglio fare un attimo un passo indietro, sì, per dire questo, che la Tritogom è nata nel 2000 e noi siamo stati uno dei primi impianti veramente di cercare di portare a recupero e alla valorizzazione del pneumatico, quello che adesso c'è e ha un determinato valore sul territorio italiano grazie all'Ecopneus, al consorzio che è nato, che così convoglia questi materiali qua a degli impianti che poi fanno materia prima. Per quello che è cambiata la cosa di in 4 anni è tutto, però il fatto è che noi questo materiale qua, secondo le pezzature, noi lo consegniamo delle aziende che fanno o materiale o fanno dei pannelli con assorbenti, traversi in alta velocità, adesso viene anche con l'aggiunta nell'asfalto, come abbiamo già fatto un pezzo di tratto di strada tra Borgano e Veneria Reale, che è la circonvallazione sulla provincia di Torino, dove nell'asfalto, parlando in parole semplici, viene messo questo materiale, questo granulo, che a sua volta è una cosa importantissima, perché riduce la rumorosità, aumenta la cosa di frenata, diminuisce, aumenta anche il drenaggio per quando piove tutto. Poi lo diamo per i campi da calcio, lo diamo per chi fa parte di suole delle scarpe e via di seguito. Diciamo che abbiamo fatto tutto un determinato mercato e dobbiamo lavorare ancora tantissimo perché di riuscire a sfruttare al massimo questa materia prima, perché questo è un valore, cioè dal rifiuto diventa un valore, e dobbiamo dare valore ancora di più e trovare delle impianti che adottano questo materiale qui invece di adoperare il caucciù vergine. Certo, senta, quindi negli anni gli impieghi, diciamo, in realtà gli impieghi, quali erano gli impieghi, era abbastanza noto anche quando ci sentimmo anni fa. Il problema era riuscire a convincere, che so io, le amministrazioni comunali a utilizzare questo polverino per gli impianti sportivi, oppure chi mette giù gli asfalti utilizzarlo nell'amalgama per avere questi benefici di cui lei ci diceva. Quindi questa parte del mondo si è mossa, quindi adesso si ha più chiaro l'idea di quello che si può fare con gli pneumatici trattati? Sì, diciamo che si è mossa, ma bisogna continuare a lavorare, perché si è mossa, ma si è mossa poco in tanti anni, e bisogna certamente di dare ancora più valore e cercare veramente di anche le amministrazioni pubbliche, che c'è una legge che impegna le amministrazioni pubbliche di sfruttare il 30% del materiale loro di recupero per le cose interne, anche come i cose dei parchi giochi, gli antitrauma, una cosa l'altra, e dobbiamo lavorare ancora di più con le amministrazioni, con tutte, per far sì che quello, perché quello è una materia prima e dà un alto valore, crea posti di lavoro, e dobbiamo anche creare delle aziende in cui si può una certa lavorazione. Questo è quello che si sta andando avanti anche per il discorso di rivestimento per dire i pali dei semafori, per gli incidenti che sono incidenti stradali, per i guardrail e via di seguito. Stiamo lavorando su più fronti, ma le dico sinceramente, o per una cosa o per l'altra non è proprio facile, perché veramente è difficile, anche se secondo me, la mia opinione, ormai è 30 anni che sono nel settore, secondo me il nostro settore, ancora adesso di più questo discorso che diventa materia prima secondaria, quello dei pneumatici, automaticamente potrebbe creare grandi posti di lavoro, perché bisognerebbe sfruttare queste cose qui. Io spero che anche il governo, formato da tecnici, abbia un occhio di riguardo su, perché prima di tutto bisogna tutelare un posto di lavoro oggi, ma dobbiamo anche crearne altri. Io penso che questo sia una linea, che sia sicuramente una cosa che si può sfruttare sul discorso dei pneumatici e del riutilizzo della materia prima che arriva dalla lavorazione. Senta, lei diceva crea posti di lavoro, crea anche reddito, perché i conti della vostra azienda comunque dimostrano che c'è una possibilità di lavoro e di reddito qui. Sì, diciamo che è logico, è tutta una cosa che va a braccetto. Il reddito e le aziende comunque possono reinvestire, infatti però bisogna veramente pensare di riuscire a un pneumatico che vede quelli degli autocarri e delle macchine, a ridurlo a polverino, a ridurlo a un millimetro, due millimetri e via di seguito, automaticamente lei deve pensare che sono delle macchine particolarissime, con dei costi di manutenzione enormi. Noi comunque tutti i momenti, adesso abbiamo anche modificato l'impianto per dare più produzione, per dare un'altra ancora, perché oltre alla produzione dobbiamo dare la qualità, perché la qualità del prodotto è quello che fa sì che poi è un materiale pulito che non ha né più acciaio all'interno né più materiale tessile, un materiale che è pulito, che ha un bel mercato, perché se tu hai un materiale sporco poi non si può far mercato. Anche quello è stato un po' all'inizio, che tutti producono il materiale ma lo devono produrre con qualità. Noi abbiamo sempre E abbiamo purtroppo perduto Giuseppe Piumatti, però intanto io ne approfitto, Corbetta, per chiedere a lei se impianti di trattamento come quello della Tritogom, cioè capaci di produrre materiale poi anche di qualità, sono diffusi sul territorio italiano o manca qui una parte, diciamo, della catena? Sono presenti in tutte le regioni, in tutte le regioni troviamo qualche impianto che fa un'attività simile a quella di Tritogom, e direi che una buona parte sono di un sufficiente livello qualitativo, anche se per tutti ovviamente vale sempre il fatto di migliorare. Forse l'unica regione in cui stiamo soffrendo in questo momento è la Sicilia, che ha impianti di frantumazione di primo giro, di primo passaggio, ma non ha una buona produzione di granuli come invece Tritogom fa. Noi stiamo insistendo ovviamente con tutti gli imprenditori perché laddove manca qualche impianto questo venga aggiunto, e soprattutto laddove ci sono che vengano o rafforzati nelle capacità produttive, perché qualcuno è troppo piccolo, e soprattutto tutti migliorino proprio in sistemi di controllo e quindi capacità di produrre al meglio il grano nel polverino. A supporto di questa azione abbiamo anche innescato un intervento di Certi Quality, una importante società italiana per ispezioni tecniche, sì, e certificazioni, a cui abbiamo affidato proprio un compito di aiutare, sostenere questi imprenditori, aiutandoli a migliorare, a individuare i punti deboli. Quindi è anche un servizio che in questo caso noi offriamo gratuitamente all'imprenditore, ma perché vogliamo che tutto il sistema complessivo nazionale si sviluppi e cresca. L'altro pianeta. E dopo le informazioni sul traffico continuiamo a parlare di pneumatici. Con noi, ricordo, c'è il direttore generale di Ecopneus, Giovanni Corbetta, e c'è anche il commendatore Piumatti, Giuseppe Piumatti, presidente del gruppo Piumatti, che è specializzato, tra tante cose, anche nel trattamento e recupero degli pneumatici. Stavamo dicendo appunto degli impieghi che si possono fare degli pneumatici. Abbiamo ricordato già degli asfalti, degli impianti sportivi. Corbetta, che altro possiamo fare? Dunque, il granulo polverino in maniera sfusa o ricompattati attraverso stampi, facendo quindi dei prodotti veri e propri, trova impiego sia nelle strade, abbiamo appunto accennato ai bitumi con aggiunte di granulo polverino, ma ci sono anche tantissime applicazioni a bordo della strada, perché si possono realizzare moltissimi manufatti per la sicurezza stradale sostituendo elementi oggi fatti in calcestruzzo, fatti in pietra o in acciaio, con analoghi oggetti realizzati in granule, stampati in granule polverino. In questo modo si introduce un grosso elemento di sicurezza laddove c'è necessità di ridurre il rischio di incidenti. Poi ci sono i campi di calcio, ma in generale molte altre attività sportive possono assorbire granule polverino. Stiamo facendo delle interessanti sperimentazioni con sottofondi per campi di pallavolo, di pallamano, stiamo facendo applicazioni per campi di pallacanestro, mappiste di atletica, pavimenti di palestre, quindi si sta molto estendendo l'applicazione nel mondo dello sport in generale. Stiamo facendo grossi studi con WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti, che ci sta aiutando proprio come specialista dello sport. E ci sono applicazioni nel mondo dell'acustica, dell'isolamento acustico e dell'isolamento delle vibrazioni. Moltissime applicazioni laddove ci sono delle rotaie, quindi tram, metropolitane, treni, c'è anche la necessità di smorzare una vibrazione che viene trasmessa dal mezzo in transito attraverso il binario metallico. E ancora in questo caso nascono necessità di avere oggetti, componenti realizzati in gomma per fermare le vibrazioni. Certo, e tutto questo insomma fa sì che un rifiuto, quindi un problema fino all'altro ieri, possa diventare invece parte di un motore di sviluppo positivo, con posti di lavoro, denaro, insomma uno sviluppo buono del rifiuto. Commendatore Piumatti, lei prima ci diceva c'è ancora molto lavoro da fare. Questo lavoro da fare, cos'è che bisogna fare per far fare alle amministrazioni e ai cittadini questo salto? Dico, prima di tutto bisogna riuscire a informare le tappette completamente tutti, poi c'è secondo me proprio un discorso culturale, perché noi in Italia abbiamo detto proprio un discorso culturale sul settore dell'ecologia, dell'ambiente e dei rifiuti, perché bisogna pensare che dietro degli impianti del genere, come accennavo prima, ci sono grandi, tante persone che lavorano, perché sono impianti di alta tecnologia avanzatissima, che non è solo italiana, ringraziando, ma è una tecnologia che comunque arriva da tutto il mondo e dall'estero, da tutte le parti. Questo qua fa sì che abbiamo dei prodotti che sono eccezionali. Bisogna riuscire a comunicare, stiamo impegnandoci anche con le varie comunicazioni, l'Ecopleus sta facendo molto, anche, molto bene. Noi tra aziende, io tra quali sono vicepresidente regionale della Confapi, e alla stessa maniera spingo su quella direzione lì con l'amministrazione, con le varie aziende che possono essere interessati, per farle conoscere, portarle a conoscere il prodotto che produciamo, che è un prodotto di alto valore. E come pneumatici, questo qui è stato un discorso eccezionale, perché è emozionante, dico che sono emozionato io, dopo 12 anni che abbiamo questo impianto, vedere che arriva, mette questo grande pneumatico di autocarri, di macchine, mette in una bocca di un trituratore l'operatore fa circa 70 metri, mette la manina sotto all'impianto, alla coclea che esce ed è polverino, è un talco oppure quello di un millimetro, due millimetri, con pezzature così, è emozionante cercare di che si vede quello, cioè è emozionantissimo, perché pensare che fior di ingegneri hanno fatto sì che il pneumatico è sempre più resistente all'usura di qua di là, tutte le varie cose, noi far la parte inversa e produrre un prodotto di alta qualità che è veramente una cosa di grande, è una cosa eccezionale. Bisogna cercare di, e poi il materiale, riuscire a venderlo in Italia e non solo all'estero come noi portiamo, perché essendo un materiale tra virgolette povero, poi che se portandolo all'estero ha dei costi esorbitanti che alla fine non viene più per tutta la lavorazione. Però lavorando insieme in sinergia i consorzi e i privati, penso che riusciamo a far capire veramente il valore che c'è e creiamo così posti di lavoro per la nostra grande amata Italia. Grazie a entrambi i nostri ospiti, ricordo Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, Giuseppe Piumatti, che avete appena sentito, presidente del gruppo Piumatti. Adesso è il momento di dare la linea a Maurizio Melis con la rubrica Mr. Kilowatt. Pochi centimetri di mescola a base di gomma. Tutta la tecnologia automobilistica di oggi e domani alla fine passa da lì, dagli pneumatici. È come con le corde di una chitarra. Se sono vecchie e arrugginite, il miglior strumento del mondo suonerà comunque male. Per questo la ricerca sugli pneumatici non si è mai fermata ed è costantemente alla ricerca di miglioramenti, di uno pneumatico più intelligente. Non è facile perché il mix di requisiti di uno pneumatico ideale è pieno di quelli che in gergo si chiamano trade-off, cioè cose che non puoi migliorare senza correre il rischio di peggiorare qualcos'altro. Come per esempio l'aderenza, che però non deve tradursi in attrito durante il rotolamento. Allo stesso modo, durata dello pneumatico e aderenza, oltre che rumorosità, sono esigenze che possono facilmente entrare in conflitto tra loro. Per questo la formulazione delle mescole in cui alla gomma si aggiungono varie polveri come la silice e il nerofumo è delicatissima. Un altro aspetto riguarda l'emissione di microparticolato, il ben noto PM10, cui gli pneumatici danno il loro contributo. Naturalmente è necessario che consumandosi ne emettano il meno possibile. Ma è sempre più evidente che oltre alla quantità conta anche la composizione chimica del particolato. Oggi nelle mescole stanno entrando per la prima volta sostanze bio, come il biofiller prodotto dalla Novamont, che è uno dei campioni italiani della chimica verde. Ma la strada da fare, e lasciatemi dire che mai metafora stradale fu più azzeccata, è ancora tanta. E dopo Mr. Kilowatt, l'altra nostra rubrica settimanale, articolo 9, con Marco Carminati alla scoperta del patrimonio storico e artistico della nostra nazione. Buongiorno da Marco Carminati, oggi parliamo di boschi e di foreste. Il nostro paese è ancora molto ricco di boschi e di foreste e tra l'altro è appena stato compiuto l'inventario nazionale di questo patrimonio forestale. L'ultimo inventario era avvenuto 20 anni fa. Parliamo di questo argomento con il dottor Enrico Pompei, che è proprio il responsabile dell'inventario nazionale delle foreste. Buongiorno dottor Pompei. Buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti. Lei fa un lavoro bellissimo che molti di noi probabilmente vorrebbero fare. Intanto le chiedo, che cos'è un inventario delle foreste e come si fa a inventariare le foreste? L'inventario delle foreste è un'indagine su base statistica che viene fatta a livello nazionale proprio per avere la conoscenza puntuale del patrimonio boschivo italiano. È stato realizzato dal Corpo Forestale dello Stato, sì. Io sono un vicequestore del Corpo Forestale dello Stato, sì. In collaborazione con il Centro per la Ricerca in Agricoltura, l'Ufficio di Trento. Sì. Che ha fatto da la parte scientifica dell'attività. Praticamente in questi anni più di 300 persone, tra uomini e donne, sia del personale del Corpo Forestale ma anche dei nostri corpi forestali regionali nelle regioni e nelle province autonome, hanno girato per tutte le foreste italiane andando a misurare tutti i parametri biologici e ambientali per conoscere le foreste nel loro dettaglio. Tra l'altro mi sembra di aver capito che proprio da questo ultimo inventario che avete appena concluso siano emersi proprio nel territorio nazionale italiano dei dati abbastanza sorprendenti, perché tutti pensano che queste povere foreste negli anni mano a mano vengono meno. Invece i dati a quanto pare hanno dato un risultato diverso. Sbaglio, dottor Pompei? Negli ultimi 20 anni le foreste italiane sono cresciute di più di 1.700.000 ettari. Quindi in termini di superficie c'è stata un'espansione del bosco che ha portato ormai il livello di copertura a circa 10 milioni e mezzo di ettari, consideriamo che è un terzo della superficie totale del paese. Questo aumento è stato determinato da tanti fattori, diciamo che il principale è stata il cambiamento del tessuto sociale del nostro paese, perché chi faceva agricoltura in montagna, agricoltura nella collina più alta, non avendo più economicità, spostandosi verso le città, a partire dagli anni 50-60 ha lasciato posto, diciamo, alla riconquista del bosco da parte di questi terreni che erano una volta agricoli, e quindi la foresta si è ripresa il suo spazio e in questi anni è aumentata di quasi 2 milioni di ettari, insomma, come dicevo prima, 1.700.000 ettari di nuova foresta. Certo, e naturalmente così a occhio e croce un cittadino comune può dire: caspita, che bellezza, l'Italia è praticamente per un terzo un grande bosco. Ma voi che siete esperti di queste materie, come giudicate questi dati? Sono positivi, sono negativi? Che cosa si può trarre da questo rilievo? Allora, io sono un forestale, per cui l'aumento della foresta è sempre un dato assolutamente positivo. Certo. L'aumento della foresta vuol dire aumento dell'emissione di ossigeno, aumento della fissazione del carbonio, che adesso, della CO2 atmosferica, che adesso è uno degli aspetti più nuovi, ma anche più noti, perché con il protocollo di Kyoto, con la convenzione sui cambiamenti climatici, e quindi quello che deve fare il nostro paese per diminuire le emissioni di gas ad effetto serra, le foreste ci danno una mano incredibile. Certo. Perché le foreste sono dei veri assorbitori di carbonio che viene poi fissato nelle strutture legnose. Anzi, l'indagine che tra l'altro è stata presentata ieri ha tutto un capitolo su quanto i suoli delle foreste, che fino adesso il suolo è sempre stato un po' il parente povero, e invece si è visto come i suoli hanno una forza di fissazione, di stoccaggio del carbonio addirittura superiore a quello della parte sopraterra, della parte, diciamo, legnosa. Questi nuovi boschi hanno anche dei problemi, chiaramente, sì, perché sono boschi, come vi dicevo prima, che derivano in gran parte da zone di agricoltura abbandonata, quindi non c'è più il contatto con l'uomo che le gestiva, sono più facili a problemi come gli incendi boschivi, per esempio, sì, o gli attacchi parassitari, e quindi una gestione oculata di queste nuove foreste, chiaramente nella visione della gestione sostenibile, che è quella che proprio da Rio più 20 ci dà la visione, la strada per certo, operare, deve essere sicuramente realizzata. Bene, dottor Pompei, io la ringrazio molto di questa sua testimonianza. Grazie a voi. Ecco, grazie anche per questo bellissimo lavoro che voi fate, anche per la bella notizia, perché comunque sapere che abbiamo milioni di ettari di bosco in più è naturalmente per il nostro paese una bella notizia. Grazie a tutti gli ascoltatori. È tutto per questa puntata. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.